Per molte persone la domanda è: ma come possiamo conciliare una vita spirituale che richiede presenza, contemplazione, con quelli che sono poi i compiti che nella quotidianità dobbiamo svolgere, con la pianificazione, con gli obiettivi che dobbiamo insomma, per forza tenere? Il lavoro tantrico comporta un'intimità crescente con ciò che noi siamo in realtà. Quindi come si organizza in noi la società delle cellule, degli organi, come è animata dai movimenti, dalla corporeità, dai pensieri, dai desideri e dalle emozioni. Cioè è una via per conoscere davvero se stessi. Gnosi se auton, conosci te stesso. Mentre nei greci questa via, almeno in parte, era la via del pensiero, mi conosco attraverso il ragionamento, la via tantrica è una via della conoscenza, a partire dal corpo. Dice Odier, ricordatevi che non facciamo altro che osservare e comprendere ciò che è. Quindi, se avete una vita familiare, vi osservate e comprendete in questo quadro. Se vivete soli, guadagnate intimità in quel contesto. La spontaneità che si installa poco a poco vi farà scoprire la vita così come è. E a partire dalla vostra stessa realtà che tutto si espande. Ricordo bene che la vita così come è non è la vita che normalmente crediamo di vivere, non è la realtà che crediamo di vivere. La realtà nella quale crediamo di vivere è Maya, cioè una realtà costruita, riorganizzata, trascritta in altro modo dalle nostre proiezioni, dalle nostre aspettative, dalle nostre paure, dai nostri bisogni. Qui stiamo parlando della realtà così come è, che è qualcosa che praticamente non conosciamo. Ecco perché si tratta di un salto in una dimensione completamente diversa. Quello che si dice a partire dalle esperienze del mondo così come lo viviamo quotidianamente, quello che possiamo dire da quel mondo, non ha nessun valore nell'altro mondo, perché l'altro mondo è veramente un mondo due. Il mondo che viviamo è un mondo uno con determinate caratteristiche. E in questo mondo è ovvio che cerchiamo di trasformarlo e continuamente non lo accettiamo. Perché? Perché è una cattiva copia della realtà, è una deformazione ridicola della realtà. Quando passiamo dal mondo 1 al mondo 2, che è il mondo che percepiamo quando abbiamo il cuore aperto e quando siamo davvero in contatto con la realtà, è un pianeta completamente diverso. Siamo nello stesso tempo, nello stesso spazio, ma osserviamo cose assolutamente differenti. Faccio solo un esempio per essere più chiaro possibile. Quando si parla di forza, oggi si intende la forza fisica. Quando si parla di bellezza, oggi si intende la bellezza esteriore. Forza fisica e bellezza esteriore possono appartenere anche a una persona la più squallida del pianeta. Ecco, quindi noi confondiamo i livelli di realtà. Diamo delle parole, usiamo delle parole che sono corrotte e che orienta la nostra percezione in modo completamente distorto. Ci sono delle donne copertina che se le osservi minimamente ti puoi accorgere che di bellezza non c'è proprio niente. C'è arroganza, c'è presunzione, c'è tutte quelle cose che di per sé sono brutte. Ecco, allora definire bella una donna così significa essere, farsi vivere, lasciarsi guidare meccanicamente a vivere da una società oppressiva. Bene, adesso chiudo questo argomento e ritorno a questa parentesi, ritorno a Odier. Dunque, la spontaneità, ripeto, si installa poco a poco e vi farà scoprire la realtà e la vita così com'è, che ripeto, è una vita completamente diversa, una realtà completamente diversa da quella che avete visto fino adesso. È a partire dalla vostra stessa realtà che tutto si espande. La presenza alla nuda realtà trasforma il rapporto sia con la vostra famiglia che con le persone con cui lavorate. Sarete più in ascolto degli altri. Gli altri sentiranno appunto ascoltati, capiti? Man mano che sarete più in ascolto di voi stessi. A partire da qui cambia tutto. Perché una persona che si sente vista, riconosciuta, ascoltata diventa una persona diversa rispetto a quella che era prima, quando non era vista, riconosciuta e ascoltata. Allora, qual è la realtà? Quella in conseguenza di un atteggiamento mentale di oppressione e di distanza? O è quella che deriva da un atteggiamento mentale di accoglienza, di riconoscimento, di presenza? Ecco, sono due realtà completamente diverse. Solo che la prima è la realtà dell'oppressione e dell'illusione. La seconda è la realtà spirituale, la realtà dove noi esseri umani possiamo vivere. Continuo. La presenza genera armonia. Ed è quello di cui una persona, una famiglia ha bisogno. Quante volte, faccio proprio una parentesi, parlando con genitori preoccupati per i loro bambini, ho dato questa indicazione: siate presenti alla realtà di quel momento, siate in ascolto, toglietevi le preoccupazioni, osservate ciò che c'è, rimanendo sereni e tranquilli. Quante volte le famiglie mi hanno riportato, questo solo atteggiamento ha cambiato i comportamenti del bambino, senza nessuna prescrizione, senza nessun bisogno di controllo. Ritorno al testo di Odier. Quando si parla di attenzione priva di intenzionalità, questo non significa che non si fanno progetti, significa che si lascia che le cose si realizzino nello spazio reale senza sviarle con un'intenzionalità che ci imprigiona e imprigiona l'altro. Si è presenti. E in questa presenza si permette all'altro la sua libertà fondamentale di essere lui stesso presente. Vivere in coppia in questo modo è una pratica continua e meravigliosa. E qui mi rifaccio al libro dei Levagni che spiegano, che parlano in Abbracciando l'amore, è tutto un libro dedicato a questo. La fedeltà, che preoccupa molte persone, non è un problema. Più vivrete pienamente, più il desiderio sarà un fremito continuo con o senza oggetto. È quell'incandescenza dentro che rende il mondo un luogo meraviglioso. Questo fremito verrà da voi stessi, dalla vostra coscienza, dal vostro cuore e disseterà i vostri familiari come tutti coloro che vi incontrano. Persino quelli seduti accanto a voi nell'autobus ne approfitteranno. Più beverete alla vostra fonte, meno ci sarà insoddisfazione. Non vi sarà più la domanda esterna, perché sarà l'insieme della vita che vi porta al fremito amoroso. Allora non ci saranno più mancanze da colmare, perché sarà l'intensità senza freni del vostro desiderio che vi colmerà, e non più l'idea di possedere, sedurre, riempire un vuoto, nutrire la vostra insoddisfazione. Quante volte abbiamo visto coppie in cui ciascuno dei due vedeva nell'altro il modo per riempire un proprio vuoto. Questo non può mai funzionare, anche se questo è considerato spesso il normale amore di coppia. Soltanto due persone, che siano due strumenti accordati, ciascuno dei quali vive pienamente in rapporto con una realtà vera e sentita, unendosi insieme, creeranno una gioia ancora più profonda. Altrimenti, agli attimi di gioia di una condivisione tra due persone con un vuoto dentro, seguiranno inevitabilmente periodi di frustrazione, in cui ci si accorge che il vuoto non può, il nostro interno non può essere riempito dall'altra persona. Continuo sempre da Odier. Stranamente vedrete che più il desiderio è incandescente, meno si dirige verso gli oggetti del desiderio, perché non ne ha più bisogno per mascherare la mancata realizzazione. Più, insomma, la fonte del desiderio è potente e pulita, meno c'è dipendenza dall'oggetto del desiderio. È totalmente controintuitivo rispetto alla pratica attuale che le persone fanno. Io ho un desiderio intenso, penso che per poterlo realizzare devo possedere quell'oggetto. Ma è proprio il contrario. Non la rinuncia al desiderio, non la rinuncia alla passione, ma anzi l'incandescenza del desiderio e della passione, che però sono rivolte a 360 gradi, a tutto ciò che c'è in quel momento lì, compreso il mio respiro, il mio cammino, il tramonto, questo foglietto di carta sul tavolo. Bene, è questo che provano i tantrici, dicevo prima, ed è questo che è così frainteso da coloro che vedono nel tantrismo una ricerca della soddisfazione sessuale legata all'ego. Il liberarsi trovando la pienezza farà sì che potrete avere rapporti con altri esseri veramente calorosi e sensuali, dove si coinvolge tutto il corpo-mente e che sfuggono a qualsiasi classificazione. Questi rapporti faranno scoprire che ad ogni sguardo vero, ad ogni contatto profondo del corpo rilassato, voi trasmetterete e riceverete l'insegnamento, cioè una presenza umana autentica che è pacificante e nutriente sensualmente. Se andiamo a vedere i momenti di vero cambiamento in terapia, sono quelli in cui accade questo, cioè l'intimità, la mancanza di paura tra due persone e allora la convibrazione reciproca su tutti i piani. A pagina sempre 128, il vostro desiderio si sfogherà in un modo nuovo, continuo. Non ci sarà più questo accumulo di energia che può trovare la calma soltanto in una scarica orgasmica. Entrerete in una sfera dove farete continuamente l'amore e godrete continuamente con la totalità del mondo. E questo non lascia spazio alcuno a quello che chiamiamo avventura. Vivrete la grande avventura, quella che non finisce mai. Questa è la vita di un aspirante o di un maestro.